Buongiorno, buongiorno, edizione extra small del giovedì mattina di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free, eroicamente in onda per la 120ª volta da marzo del 2012. La giornata di domenica 27 ottobre 2013 sarà un'occasione di incontrarci in piazza. Abbiamo organizzato come redazione di Restiamo Animali, assieme al gruppo misto in consiglio comunale di Firenze e l'associazione LIDA ONLUS, una grande manifestazione dal titolo Perché la caccia è fuori dalla storia. Ci saranno una piazza tematica e un convegno contro la caccia. A Firenze, in piazza Santo Spirito, saranno i banchetti delle associazioni e nella ex chiesa di Santa Monica, in via Santa Monaca 6, si svolgeranno gli interventi dei relatori. Approfondiremo il tema della caccia sotto tutti i punti di vista. Inizieremo con la descrizione del lungo cammino di civiltà del movimento contro la caccia, ne parlerà Carlo Consiglio della LAC. Parleremo poi dell'insostenibilità scientifica della caccia, quindi cadranno tutte le pseudocertezze sulla sostenibilità scientifica della caccia, ne parleranno Massimo Vitturi della LAV e Guido Scoccianti del WWF. Affronteremo poi il tema delle amministrazioni provinciali e della loro gestione dei cosiddetti animali nocivi. Ne parlerà Samuele Venturini, un biologo castorologo, sul tema delle nutrie, e Fabio Dall'Osso, veterinario della LIPU, parlerà della gestione di colombi e piccioni. Dopo la pausa pranzo, dove offriremo un buffet cruelty free con prenotazione obbligatoria alla modica cifra di 5 euro, parleremo del tema della sicurezza per gli animali umani. Ne parlerà Maurizio Giulianelli, vicepresidente dell'associazione Vittime della Caccia. C'è poi il tema della democrazia, visto che 7 italiani su 10 dicono no alla caccia secondo un sondaggio dell'Ipsos 2010. Roberto Piana e Piero Belletti ci parleranno del referendum regionale contro la caccia in Piemonte, una questione di democrazia negata. C'è poi l'annoso problema della proprietà privata, violata regolarmente dai signori cacciatori che ne hanno facoltà. Ne parleranno Paola Donata Zanin e Claudia Gendot, che ci racconteranno l'esperienza di un gruppo di proprietari che in provincia di Pisa sono riusciti a escludere la caccia dai loro terreni privati. Affronteremo quindi la questione delle armi e della violenza con un intervento di Carlo Tombola dell'Osservatorio Permanente sulle Armi. Il suo intervento si intitola Armi leggere, morti pesanti. L'associazione Link Italia con la dottoressa Francesca Sorcinelli affronterà il tema della relazione tra caccia e implicazioni psicologiche dell'esposizione alla violenza. Chiuderà la giornata Caterina Servi Scarselli del progetto Vivere Vegan, affrontando il tema della non violenza a portata di mano attraverso la scelta vegan. Vi aspettiamo in piazza, dove ci saranno banchetti, flash mob, ospiti, attivisti, foto, volantini, informazioni, dibattiti e occasioni di dialogo. Tutti gli aggiornamenti su restiamoanimali.wordpress.com. E domenica stessa chi non potrà muoversi da casa potrà seguirci attraverso i social network. Ci stiamo organizzando in modo multimediale, in modo da postarvi continuamente quello che starà succedendo quel giorno. Tenete d'occhio quindi il nostro blog, tenete d'occhio la pagina Facebook di Restiamo Animali e vi inonderemo con i nostri tweet. Proprio oggi, giovedì 24 ottobre alle 17:30, all'Accademia Toscana di Scienze e Lettere La Colombaria, in via Sant'Egidio 23, parte un ciclo di incontri sulla questione animale. Ne parliamo con Luigi Lombardi Vallauri, che è uno degli ispiratori di questo progetto. L'incontro di oggi, il primo, vedrà una relazione di Guido Chelazzi alle 17:30 sul tema la biodiversità come risorsa di curiosità e di estetica, varietà, bellezza, animazione del mondo, i selvatici. Gli incontri andranno poi avanti per ottobre e novembre fino alla tavola rotonda del 12 dicembre con interventi di Donatella Lippi, Carla Bernasconi, Luigi Lombardi Vallauri, Maria Chiara Tallacchini, Maria Tinacci Mossello e altri relatori e partecipanti a tavole rotonde. E Luigi Lombardi Vallauri, qual è il senso, come nasce questo progetto di introdurre la questione animale all'interno dell'Accademia La Colombaria? Mi accorgo sempre più che l'animalismo sta passando dalla fase dei militanti alla fase che potrei chiamare giacca e cravatta o doppio petto. C'è ormai un animalismo, tra virgolette, rispettabile, istituzionale. E una sua istanziazione è proprio questo ciclo assolutamente accademico. Organizzando questo ciclo io ho tenuto presente che la questione animale è multidimensionale e qui abbiamo selezionato 6 dimensioni, non sono certamente le uniche. La prima è quella della biodiversità, e cioè appunto difendere la bellezza del mondo, che sarebbe impoverito dalla sparizione degli animali selvatici, che sono milioni di specie, molte in via di estinzione. La seconda conferenza si può definire zooantropologica, cioè come l'incontro con gli animali ha fatto capire l'uomo, ha rivelato l'uomo a se stesso. La terza dimensione è quella, chiamiamola psicologica oppure ontologico-psicologica, sulle menti animali. Cosa sente l'animale? Gode, soffre, capisce, impara, apprende, è un essere senziente in un senso molto lato. La quarta è la dimensione diritto di cui mi occuperò io, e il diritto è esploso, il diritto animale è esploso negli ultimi 20 anni, più di ogni altra parte del diritto, e io credo che sia travagliato da terribili contraddizioni sulle quali bisogna fare attenzione. La quinta dimensione complessissima è quella della alimentazione carnivora. Io credo che ci siano 6 ragioni per passare all'alimentazione vegetale, almeno vegetariana o proprio vegan, però naturalmente adesso manca il tempo, forse ne ho già parlato in precedenti trasmissioni. E la sesta dimensione che abbiamo scelto di evocare è quella che chiamerei umanistica, cioè la difesa dell'uomo dal disonore di questa prepotenza, di questo dominio, di questa reificazione dell'animale, e anche la risposta alla domanda: ma fa bene all'uomo spiritualmente essere violento con gli animali? La tavola rotonda sarà in qualche modo ispirata a Capitini, perché verrà il suo allievo Martini da Perugia. Capitini è il grande pacifista italiano, e io credo che anche se non esauriamo tutto l'argomento, è un ciclo che comunque può cambiare la consapevolezza, per qualcuno anche cambiare la vita, quindi sono molto convinto nell'invitarvi. Allora, l'appuntamento è oggi in via Sant'Egidio 23, l'Accademia La Colombaria, con la relazione di Guido Chelazzi.